Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giù il cappello all'impresa della Fiorentina ad Anfield Road, niente meno che la tana del Liverpool. Era successo tanti anni fa al Genoa di Bagnoli, marzo 92. Era Coppa UEFA, ma fu la prima storica volta che una squadra italiana vinse lassù, con una doppietta di Aguilera e il momentaneo pareggio di Ian Rush, per dire anche dei nomi di una certa nobiltà. Poi anche la Roma aveva vinto a Liverpool nel 2001 in Coppa UEFA, ma aveva perso 2-0 all'andata, e quell'1-0 firmato da Guigou, già i nomi sono un po' meno nobili, e Antonioli parò un rigore a Owen, però, per tornare ai quarti di nobiltà. Fu una partita strana in cui fu espulso Damiano Tommasi, credo l'unica della sua carriera. Il premio per questa impresa è davvero molto consistente, perché la Fiorentina ha vinto il suo girone, ha scavalcato il Lione. A differenza di Inter e Milan, pescherà una seconda squadra classificata e non una vincitrice di girone. Non è una differenza da poco, come va a spiegarci il ministro degli esteri. Buongiorno Fabio Taremi. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Sì, è un doppio successo, anzi è un triplo successo, perché vincere ad Anfield, anche in una partita nella quale Liverpool non giocava per nulla se non per l'onore, ma a quelle latitudini l'onore è importante, sì. Le amichevoli non sono mai tali. La Fiorentina si è presa un discreto bonus per quanto riguarda le casse della società, e quindi il timore che la squadra affrontasse la gita ad Anfield come una sorta di andiamo a vedere il museo dei Beatles piuttosto che andiamo a fare shopping nello store del Liverpool non è stato tale. Onestamente bisogna anche ammettere che il Liverpool quest'anno è veramente poca cosa, ma soprattutto dire che se a settembre, ai primissimi di settembre, ci avessero detto che sarebbero passate 3 squadre su 4, una di queste a non passare fosse stata la Juventus, ma soprattutto che l'unica a vincere il girone fosse stata la Fiorentina, credo che non ci avremmo onestamente creduto, anche perché la Fiorentina stava in un girone complicato, un girone dove era la terza forza e quindi era quella che doveva rincorrere, era un girone dove c'era una chiara più debole che era il Debreceni, ma era un girone dove la caratura europea dei Viola era enormemente inferiore sia al Liverpool che al Lione. Il fatto che la Fiorentina si sia qualificata può anche voler dire che il Liverpool è una squadra in flessione, ma che si sia qualificata con il secondo miglior punteggio tra tutti gli 8 gironi e a spese di un Lione che non ha regalato mai nulla, io credo che la Fiorentina vada giustamente celebrata e giustamente indicata come la squadra del momento, come portabandiera del calcio italiano. Tutta la Fiorentina a funzionare, in particolare, mi segnalava prima Franco Piantanini da Camere Statistiche, è l'asse Vargas-Girardino, decisivo. Sì. Decisivo nel gol partita all'ultimo minuto del recupero. Sì, grazie anche a una frittata di Darby, che era il difensore. Sì, certo. Però è curioso notare. Però bene comunque. È curioso notare che quello di Vargas di ieri sera è il quinto assist per altrettanti gol di Girardino, 3 in campionato e 2 in Coppa. Sì. E adesso questo, dicevo appunto, il premio vero, concreto, pesante è che, per carità, a questo livello gli avversari deboli cominciano un pochino a rarefarsi, ma insomma, se parliamo di Olympiakos, Stoccarda, CSKA, Mosca, Porto e Bayern, e vado in salita, almeno dal mio punto di vista, diciamo che sono avversari abbordabili comunque. Guarda, sono avversari abbordabilissimi, al punto che se fosse passata la Juventus e non il Bayern, la Fiorentina avrebbe anche avuto solo il Porto forse come avversaria possibile, non potendo incrociare un'italiana. La cosa vera è che poi comunque anche la Fiorentina a livello di ottavi di finale è una neofita e quindi non ha esperienza europea, ed è per questo che io eviterei il Porto. Lo eviterei perché comunque i portoghesi, al di là che una Champions League non molti anni fa l'hanno vinta con José Mourinho alla guida, però sono comunque una squadra che da questi quartieri cioè ha una frequentazione superiore. E lo sappiamo ormai da anni che avere esperienza internazionale è un qualcosa che non si compra e non si acquisisce se non giocando tanto. Fiorentina ha bisogno di passare il turno e ha bisogno di andare nei quarti, dove probabilmente non sarà più favorita, ma negli ottavi di finale, se ha la fortuna di non pescare il Bayern, e comunque prima della partita contro la Juventus di martedì, il Bayern tutti noi lo consideravamo un avversario non di una caratura elevatissima, e invece il Bayern ha dimostrato che quando si gioca con le spalle contro il muro in Europa e gli ottavi di finale sono gare di andata e ritorno, e quindi c'è un pathos e c'è una partecipazione emotiva che è certamente superiore, dove ogni gol veramente costa carissimo, perché non dimentichiamoci che nei gironi basta sempre vincere 1-0, ma negli ottavi di finale non potrebbe anche non bastare vincere 1-0, e quindi bisogna anche contare i gol, bisogna farli in trasferta, cioè tutto un altro film dove la Fiorentina non è abituata ad esibirsi. Però Olympiacos, CSKA Mosca, io me li prenderei subito. Lo Stoccarda vediamo, perché sì, lo Stoccarda ha cambiato appena allenatore e ha subito fatto 3 gol nei primi 20 minuti ieri sera contro lo Zeceni, non contro una roba grossa. Però insomma eviterei il Porto e il Bayern, nei confronti delle altre la Fiorentina va secondo me molto, molto favorita insomma. C'è un ascoltatore di nome Diego che infierisce e dice: la Fiorentina è passata nonostante la partenza di Melo. Ma in realtà poi il messaggio continua, che non è continua, e fa capire che non è una battuta nei confronti della Juventus, ma è il ricordo del fatto che i tifosi dovrebbero capire e lasciar fare la campagna acquisti ai dirigenti, perché è vero che ci fu molta contestazione a Firenze in avvio di stagione per le mosse di mercato, e poi invece le cose sono andate così. Una piccola curiosità prima di lasciare la linea brevemente al traffico: da quando nel 2003-2004 sono stati reintrodotti gli ottavi di finale, cioè da quando ci si limita per fortuna a un girone solo, mentre allora erano due, e si torna finalmente da febbraio ai confronti diretti, solo 4 squadre si sono sempre qualificate per questa fase, cioè per la fase poi eliminazione diretta, che sono il Real Madrid, il Lione, il Chelsea e l'Arsenal. Però la curiosità ulteriore è che il Real è stato eliminato 5 volte su 6 proprio agli ottavi, e quell'unica volta che è andato oltre è andato fuori ai quarti dal Monaco di Deschamps. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e vediamo invece chi possono pescare Inter e Milan. Allora, se gli va tutto bene, pescano una tra Bordeaux, Siviglia e Arsenal. Se gli va male, pescano una tra l'Inter, Chelsea, Manchester e Real Madrid, il Milan, Chelsea, Manchester e Barcellona. Non è una grandissima prospettiva. Deve essere evidentemente caduta la linea, perché non mi pare di sentire notizie di Fabio. Pronto? Eccolo. Io ti sentivo benissimo. Sì, chiedo scusa. Secondo me, arrivando secondi è già tanto, cioè nel senso che non è normale che Chelsea, Manchester United, Real e Barcellona vincano il loro girone, sapendo bene che l'Inter non può prendere il Barcellona, non può prendere la Fiorentina, il Milan non può prendere la Fiorentina e non può prendere il Real Madrid. Però è incrociato, cioè potremmo avere un incrocio, che ne so, Inter-Real Madrid, Milan-Barcellona. Eviterei come la peste il Chelsea. Sì. Secondo me il Manchester United di oggi è un'avversaria che in due partite giocate bene, sia Inter che Milan possono battere. Possono giocarsela almeno. Sì, possono giocarsela, perché il Manchester non ha più difesa praticamente in questi giorni, però adesso manca ancora tanto. Bisogna arrivare al 20 febbraio, perché ricordo che il sorteggio sarà il prossimo venerdì. Venerdì 18. Quindi noi dobbiamo ovviamente fare una proiezione, ma i valori li vediamo adesso, perché tornando un attimo indietro, il Bayern di Monaco tra poco fa un mese di sosta e quindi può rifare la preparazione. Gall avrà certamente più fiducia e quindi potrà lavorare un po' più tranquillo, quindi il Bayern di Monaco secondo me può diventare pericoloso in primavera. Credo, ripeto, eviterei come la peste il Chelsea e le due spagnole, e io eviterei anche il Siviglia, che secondo me è una squadra sottovalutata, che da 2-3 settimane sta un po' perdendo colpi in campionato, però è una squadra che soprattutto in casa può farti davvero del male. Anche il Bordeaux è una buona squadra, però a questo punto qualcuno bisognerà prendere, e quindi insomma tendenzialmente il Bordeaux è un buon prendere, chi la prende. Bilancio finale su 16 squadre: sono 3 sono italiane, spagnole e inglesi, e fa 9, 2 sono francesi e tedesche, fa 13, e poi c'è una portoghese, una russa e una greca. Sì. Rispetto all'anno scorso, Gigi, c'è qualche piccola e significativa differenza, nel senso che le inglesi hanno perso una squadra, il Liverpool, e le spagnole hanno perso l'Atletico Madrid. Sì. Le italiane 3 erano e 3 sono diventate. Le tedesche c'era solo il Bayern di Monaco, quest'anno c'è anche lo Stoccarda e avrebbe forse potuto farcela anche il Wolfsburg. Ci sono 2 francesi, il Bordeaux e il Lione, mentre il Lione era da solo l'anno scorso, quindi diciamo che i francesi e i tedeschi raddoppiano la loro Euro pattuglia. C'era una greca l'anno scorso, che era il Panathinaikos, c'è una greca che è l'Olympiakos. Sì. C'erano due portoghesi perché c'era lo Sporting, che però ha preso 12 gol in due partite dal Bayern di Monaco negli ottavi. Quest'anno c'è soltanto il Porto. L'unica vera novità è il CSKA, perché i russi solitamente non li troviamo. Hai ricordato che ci sono Bordeaux e Lione in campo francese. Domenica c'è Lyon-Bordeaux, che è il confronto diretto al vertice del campionato. E poi in chiusura vedremo anche quali sono gli appuntamenti del fine settimana. Direi che tra le cose molto curiose di questo turno ci sono due gol firmati da portieri. Allora, uno dal dischetto, e già questa era una discreta curiosità. Ieri sera addirittura un gol di testa. Beh, insomma, che da un lato è molto bello, dall'altro dà un po' l'idea, no, del torneo straparrocchiale quasi. Ma intanto bisogna ricordare che Anzi Orbut, il portiere del Bayern di Monaco, era al terzo gol segnato alla Juventus, e tutte con tre squadre diverse, e tutte e tre le volte la sua squadra ha passato il turno. Quindi, insomma, quando vedi But sul dischetto già sai come andrà a finire. Tra l'altro un rigore calciato benissimo. Molto bene, molto bene. Guardando Buffon fino all'ultimo, senza mai abbassare gli occhi sul pallone. Ma il sospetto è che i portieri possano essere, da un lato, i migliori rigoristi possibili, perché conoscono come il portiere può intercettarli. Da un altro lato, secondo me è pericolosissimo, perché se il portiere non la devia ma la para in presa e la rilancia, tu non hai nessuno in porta. Però vabbè, insomma, questa è un'altra cosa. No, onestamente ci siamo anche interrogati ieri sera in redazione su questo gol di Bolat, il portiere dello Standard Liegi. Perché molte volte, io non ho una statistica, nessuno secondo me ce l'ha, però fateci caso, quasi sempre quando il portiere avanza per andare a colpire di testa, in qualche modo la tocca. E questo può voler dire che arrivando sempre per ultimo il portiere, perché deve fare più strada, forse tutti gli accoppiamenti ci sono già in area di rigore, quindi lui rimane abbastanza solo. Ma secondo me non è neanche questa la spiegazione, perché di fatto quando arriva uno con una maglietta diversa non puoi non vederlo. Io credo che sia davvero il disorientamento che hanno le difese, tenendo sempre presente che due o tre uomini li devi spendere in barriera, sprecare in barriera, e quindi sei sempre in inferiorità numerica, e quindi e oltretutto chi batte la punizione, se faccio avanzare il portiere, lo faccio avanzare perché vado a cercare di dargliela, certo, e coinvolgerlo. Provo a trovare lui, certamente. Esatto, anche questa è. Oh, poi si discute sulla vera dimensione internazionale di Balotelli. Mi pare che ieri sera l'abbia dimostrata, l'abbia confermata, più ancora che con la punizione, direi con quell'assist strepitoso, perché quello è un riflesso di un istante. Ed è l'unico modo di far gol, perché ho sentito santificare la discesa di Zanetti, aveva regolarmente perso palla. Che era stata palla messa gliela deviata il russo. Esatto. E invece, quindi era corner per l'Inter. Io credo che se non hai l'istinto del campione, la palla la lasci andare in corner. Sono praticamente certo di questo. Invece lui la arpiona sulla linea, li tacco al volo e la mette indietro. Ma guarda, io dico due cose. Che in una mia squadra Balotelli, se ovviamente sì. Su comportamenti normali, per me Balotelli deve sempre giocare, e io credo onestamente che sono due mesi che ci tempestiamo di interrogativi su Cassano, non Cassano e quant'altro in nazionale, però insomma io sinceramente se devo vedere uno che può meritare un palcoscenico maggiore in questo momento, penso a Mario Balotelli. E la seconda è questa, che lui ha dei colpi estemporanei meravigliosi, come li ha anche Cassano, come li hanno anche giocatori come questi. Diventerà inarrivabile, o quantomeno diventerà uno dell'elite, quando farà ad esempio lui nel primo tempo ha fatto un movimento per lui semplicissimo, però molto difficile, da centravanti vero, spalle alla porta, ne va dietro due, lui straordinario, ha fatto due passi e però poi l'ha tirata in bocca al portiere, perché io credo che nella sua testa, in quel momento e con il suo istinto, lui fosse già contento di aver fatto quel movimento, cioè, ha fatto vedere a tutti che si è messo in tasca due difensori, poi il tiro vabbè, e gliel'ha tirata in bocca, e da lì lui poteva segnare perché era quasi un rigore. Quando farà questi gol più normali, cioè normali anche per lui, sarà diventato, secondo me Balotelli salirà ancora un grande. Sarà diventato il grande giocatore che potenzialmente si vede tutto. Ultimissima, si dibatte se la punizione sia una papera del portiere o sia una grande prodezza. Io sono a metà, faccio due notazioni. La prima è che se la segna Cristiano Ronaldo è certamente una prodezza, e se la segna Balotelli è una vaccata del portiere. No, che mi pare più o meno... possa andare. La seconda è che indubbiamente il portiere ha responsabilità molto pesanti comunque. Allora, il portiere ha responsabilità molto pesanti, che secondo me non è un buon portiere, perché gliene ho viste fare anche altre due, tre di non grande sicurezza. Devo dire che rivista da dietro la palla cambia abbastanza traiettoria, cioè cambia traiettoria all'ultimo istante. Mi ha ricordato alcune punizioni di Pirlo, quelle che sembrano facili da parare, poi la palla si abbassa, cioè, con quelle di Pirlo si abbassa in maniera più netta. Lì certamente ha avuto un movimento, favorito anche credo dal fatto che questi palloni insomma non sono molto favorevoli per chi li deve respingere. Io credo che lui abbia fatto un gran bel tiro, che probabilmente un portiere un po' più attento ci avrebbe messo i pugni e l'avrebbe alzata sopra la traversa, però insomma dire che è tutta una papera del portiere mi sembra ingeneroso, dire che è un gol alla Roberto Carlos o alla Claudio Branco mi sembra eccessivo. È eccessivo dall'altra facciamo parte. 60 e 40, dai, 60 bravo Mario e 40... Certo. Fesso il portiere. E non dimentichiamo mai che se l'Inter può festeggiare una qualificazione da seconda, più ancora il portiere di ieri sera deve ringraziare quello della Dinamo Kiev, perché sennò staremo facendo altri discorsi. Velocemente, che cosa ci propone il ritorno ai campionati? Derby di Barcellona, tra Barcellona ed Espanyol. Occhio, perché Messi è uscito accompagnato ieri da due stampelle umane, perché è stato toccato duro dopo il gol su calcio di punizione. Il Real Madrid gioca contro il Valencia, non una partita comoda, oltretutto con parecchie assenze, quella di Cristiano Ronaldo e quella di Kakà su tutte. Vi segnalo Liverpool-Arsenal, però in Premier, si gioca domenica pomeriggio alle 5. Secondo me è una partita che dopo la Serie A, visto che in Serie A il pomeriggio credo ci sia l'Inter e probabilmente anche un'altra grande, c'è il Milan, credo, Inter-Milan giochino di pomeriggio, perché la Juve gioca sabato e il posticipo è Roma-Sampdoria. Secondo me è una bella accoppiata pomeridiana, un buon programma sia pomeridiano che tardo serale del sabato. Alle 8:30 Barcellona-Espanyol e alle 10:15 Valencia-Real Madrid. Grazie a Fabio Tavelli. A voi buona giornata. Scelgo quella di firmata Beppe da Pisa, tra le tante mail che sono arrivate di proteste in questi giorni, non soltanto oggi, per la mancata, per il fatto che la Fiorentina non ha mai avuto l'onore di una diretta Rai. A noi basterebbe che in trasmissione lei facesse presente che la Rai ha trasmesso in Champions, scrive Beppe da Pisa, 3 partite dell'Inter, 2 del Milan, 1 della Juve e 0 della Fiorentina. Complimenti al servizio pubblico, che l'abbonamento fino a prova contrario lo richiede uguale per tutti. Lorenzo, chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Granzi, praticamente mi aveva già anticipato Tavelli su Balotelli. Io dico una cosa, Balotelli non mi è mai stato tanto simpatico, però questo non mi offusca, diciamo, il giudizio, perché secondo me Balotelli è un fenomeno. Io di qua, secondo me, dal mio modesto parere, e va sicuramente messo in Italia un ragazzo del genere. Avrà i suoi comportamenti, ok, non sbagliamo di nuovo come abbiamo fatto con Cassano, e secondo me lì deve andare un po' a studiare sociologia comportamentale, perché cosa vuole Agnellini o dei ragazzi che combattono, insomma, nel senso calcistico, perché io non lo so, un fenomeno del genere è una perla nera del nostro calcio quel ragazzo qua, per me. Volevo vedere se condivideva con me questa No, perché non mi sembra che abbia Agnellini in nazionale, non capisco la distinzione, cioè non mi sembra come non mi sembra che ci sia in nazionale gente che si tira indietro, che tira indietro la gamba, eccetera. Lì più al momento sbaglierà probabilmente, e anzi per me sbaglia in alcune scelte, ma questo fa parte delle opinioni. E sa che siamo una 60 di milioni in Italia di CT, ma non mi pare si possa dire che al momento Balotelli abbia fatto molto per essere convocato in nazionale, no? Quando è stato convocato nell'Under 21, diciamo che di cui dovrebbe essere il trascinatore, diciamo che Balotelli con l'Under 21 ha fatto qualche discreta prestazione, sempre lasciando intendere col suo atteggiamento che lui era un po' sprecato per quella ribalta così piccola, e una volta ha lasciato la squadra in 10, mi pare una almeno, facendosi espellere in maniera davvero sciocca, poiché l'Under 21 è sempre stata tradizionalmente sempre stato il serbatoio della nazionale maggiore. Io non credo che in questo momento e da questo punto di vista, per i trascorsi, Lippi stia sbagliando. Se invece ragioniamo sul da qua in avanti e per esempio faccio a mente locale al fatto che la squadra eliminata l'altra sera dal Bayern in quella maniera è per buona parte la nazionale, Eh beh, allora io credo che da oggi, 10 dicembre, all'11 giugno, anzi un po' prima, anzi a 14 giugno è il debutto, ma insomma un po' prima per fare in tempo alla lista dei 40 e poi quella dei 23, beh, credo che un'occhiata, uno come Balotelli certamente la meriti, sempre che nel frattempo il processo di maturazione comportamentale continui, ammesso che sia poi già cominciato seriamente, questo è tutto da vedere ancora. Da Prato, Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Garanzini. La cosa bella oggi della vittoria della Fiorentina, no? Siccome il calcio ha fatto andare un po' tutti i bambini, è quella che adesso, non per una settimana o due, ma per due mesi e mezzo, possiamo sognare, e per due mesi e mezzo nessuno ci può svegliare da questo sogno, diciamo, perché tale come tale lo stiamo veramente vivendo, no? Questa avventura della Fiorentina. Io eviterei, se fosse possibile, il Porto, che mi sembra una squadra esperta e molto rognosa. E poi, siccome veramente per noi è un premio, vedere un premio, è una cosa veramente bella potersi confrontare con queste squadre, andiamo e giochiamocela. E la magia della Champions League, a mio parere, rispetto al campionato, è una, anzi una netta. Intanto che è meno esasperato l'aspetto fisico e si gioca più a pallone, e spesso viene premiato di più chi gioca più a pallone rispetto a chi ha prepotenza fisica come caratteristica principale. E poi magari anche non sottovalutare il fatto che molte volte, almeno nei primi turni, magari alla fine, no, gli arbitri hanno un po' meno di rispetto e di riverenza nei confronti dei grandi club. Insomma, se c'è un rigore lo danno anche alle piccoline, ecco, come noi. È vero, Giorgio, questo che lei ha detto è vero, è così, e questo è il fascino della Coppa Campioni, perché poi io sono sempre molto felice quando si arriva a questi giorni, ci si lascia alle spalle la Champions League, anche se poi continuerà a chiamarsi così, ma insomma per me la Champions League è questa robaccia che si gioca a gironi, e invece la Coppa Campioni è quello che si gioca a dentro o fuori da febbraio in avanti. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, senta, due cose. Una velocissima, un inno alla gioia. Ieri quella gol di quel portiere, guardi, come ha corso per il campo, come ha gioito, come era felice, insomma, mi ha fatto dimenticare per un attimo questo calcio malato e brutto. È stata una cosa bellissima. Sì, punto. Un po' oratoriale, ma bellissima. Certo, sicuramente. Sì, no, d'accordo. Con tutto nel contesto, giusto? D'accordo, allora, d'accordo. Punto. Poi una cosa sul Milan. Possibile che non ci si renda conto nello staff del Milan che il Milan è una squadra, a vederla da fuori, quando corre è una squadra forte, quando non corre è una squadra vulnerabilissima. Come si fa a non riuscire a dare a livello agonistico qualcosa in più a questa squadra, con tutto rispetto anche per la carta d'identità e tutto quanto? Secondo me corrono già tanto, anzi corrono troppo. Quando corrono. Ma quando corrono fino a quando ce la fanno. Lo Zurigo, che insomma per me è un dopolavoro ferroviario. Dopolavoro ferroviario non ce ne sono più tanti in giro oggi. Corrono fino a quando possono, fino a quando ce la fanno. Adesso io credo che dato che sono in mano, come è noto, un'organizzazione scientifica all'avanguardia come Milan Lab, io credo che prenderanno una buona tenda ossigeno, forse l'ho già detto in un'altra circostanza, per le vacanze di Natale, sotto cui ricoverare almeno Seedorf, Ambrosini e Pirlo, ecco, come minimo, perché hanno ancora due partite, tra l'altro, prima di arrivarci, e credo che sia l'unico modo in cui possono provare per l'appunto a passare le feste, per poi prepararsi. Mi pare che il 10 gennaio ci sia già un Juventus Milan, quindi c'è il turno infrasettimanale del 6, e il 6 se il Milan gioca in casa in un posticipo serale col Genoa, mi pare. Quindi Milan-Genoa il 6 gennaio, Juventus Milan il 10. Beh, insomma, ripeto, una decina di giorni di tenda ossigeno per i centrocampisti del Milan per arrivare preparati sarebbe da consigliare. Feodor ha chiamato la provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno Garanzini, ascolti due cose. Prima, per quanto riguarda Balotelli e il fatto che sia convocato in nazionale, non so se può essere d'accordo con me, però io mi occupo un po' di calcio giovanile, gioco a calcio, anche se ho 39 anni, continuo a giocare a calcio in porta, e pensare che Balotelli vada in nazionale mi lascia perplesso. Se fosse un allenatore, il Balotelli lo farei giocare gli ultimi 10 minuti se la squadra vince 2-0, perché sennò mi penso di trovarmi con la squadra in 10 uomini qua, spesso, ecco, credo. Uh-huh. non credo che... Tenga conto che nel caso di ieri sera, io per carità non ho dubbi che la sua carriera sia brillante, la sua carriera di calciatore o di tecnico, comunque del mestiere. Se ieri sera Balotelli lo mette negli ultimi 10 minuti, rischia rispetto a come è andata, no? Tengo conto che se non ci fosse stato Balotelli ci sarebbe stato comunque un altro giocatore che probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa anche lui, giusto? Ah sì, sicuro. Ah beh sì, certo, in 11 sì, questo è un buon principio. Va bene, e questa era la prima. La seconda? Mi permette di fare un piccolo appunto tecnico, sì, sui portieri? Okay, allora, la punizione di Balotelli, io prima che commentavate con un interlocutore, non ricordo chi era, e punizioni di quel genere lì, da portiere, io ho 30 anni di esperienza in porta, le posso garantire che sono molto difficili da prendere. Non è questione di metterci i pugni o non i pugni, sono tiri che cambiano, sono scagliati intanto in maniera molto veloce, quando arrivano nei press il portiere li vede da una parte, all'ultimo cambiano direzione. È difficile, non è che bisogna metterci pugni o le mani, no. È veramente complicato e mi trovo veramente in difficoltà a sentire commentatori che riescono a giudicare i portieri in maniera corretta. Cioè, vedo molti commentatori che, lo so, il portiere fa il miracolo e gli danno un 7,5 in pagella, mentre secondo me il giudizio di un portiere va giudicato in tutta la partita, cioè la sicurezza che dà la squadra, le uscite, le come gioca coi piedi, certo, in che maniera, okay, certo. E vedo tante volte che magari il portiere anche che fa il miracolo e poi magari durante la partita non è che sia che dia tutta questa sicurezza nelle uscite, è un po' timoroso, però questo, il miracolo in capisci? Questo la condivido in pieno, c'è molta sommarietà di giudizi, soprattutto con le partite in notturna, ormai sono quasi tutte in notturna e si immagina lei che attendibilità possono avere delle pagelle compilate da gente che inevitabilmente professionalmente è costretta a tenere la testa bassa e ad alzarla soltanto quando sente un urlo, se allo stadio, oppure un bercio del telecronista se è davanti al televisore. Quindi lasciamo perdere l'attendibilità delle pagelle, che d'altra parte è un problema storico addirittura e non di questi giorni. È vero, la traiettoria di Balotelli con questi palloni leggeri di ieri sera, che sono quelle poi di Pirlo, di Cristiano Ronaldo, di tanti altri colpitori, è beffarde, cambia direzione all'ultimo istante. È anche vero però che il tiro è centrale, quindi con i palloni leggeri di oggi io non pretendo che un portiere di livello internazionale come quello di Rubin Kazan blocchi quella palla, ma che la intercetti o che ci metta un pugno, una zampata, una manata, insomma in linea di massima direi di sì. Questo per i pugni. Se parliamo dei piedi, il portiere russo ieri sera era scarso, vero, insomma. Roberto ha chiamato dalla provincia di Vicenza, anche lui, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Intanto un piccolo elogio. Parlare di calcio, bisogna, come fa lei, con onestà e con un senso della morale, bisogna essere bravi adesso, veramente bravi. Andiamo alla partita di ieri sera dell'Inter. Io non guardo quasi più il calcio, l'ho giocato per tanti anni. E lei prima citava l'oratorio. Io ho acceso la televisione al 20° del primo tempo, sembrava una partita dell'oratorio. E in questo oratorio c'era un ragazzo da oratorio splendido, con tutti i difetti che ha, li sappiamo tutti, li abbiamo letti, li ricordo, era Balotelli. Secondo me Balotelli è una iniezione di calcio come dovrebbe essere, perché è ancora il calcio di divertimento puro ed è una cosa bellissima. Poi abbiamo visto i colpi di tacco, l'ingenuità, tutte le stupidaggini, certo, che ma fa. Certo, ma quando lui si è messo il pallone lì, sembrava di essere all'oratorio, e sì, sembrava il ragazzo dell'oratorio che dice adesso... All'oratorio nel senso... Tutti. Esattamente. Lo spirito giusto dell'oratorio, quello che lei sta tirando fuori, in cui tutto era puro estro, era pura libertà e... Di interpretare, di inventare e di godersi, no? È vero. Nella cornice era uno spettacolo fino alla mezz'ora del primo tempo di una modestia assolutamente sconfortante. Gli arbitri di sabato e domenica: Atalanta-Inter Rizzoli, Bari-Juventus-Tagliavento, Cagliari-Napoli-Pierpaoli, Catania-Livorno-Orsato, Chievo-Fiorentina-Valeri, Lazio-Genoa-Celi, Milan-Palermo-Bergonzi, Parma-Bologna-Peruzzo, Sampdoria-Roma-D'Amato, Siena-Udinese-Tommasi. Il ripasso di storia. Nicola Filippone ci racconta cosa è successo un 10 dicembre. sembra ieri. 10 dicembre 1984. Nello slalom speciale del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo, lo sciatore italiano Paolo De Chiesa ottiene il secondo posto, alle spalle dello svizzero Zurbriggen. Per De Chiesa si tratta del 12° e ultimo podio in Coppa del Mondo. Il primo risale a 10 anni prima esatti ed era stato anche allora un secondo posto dietro Stenmark a Madonna di Campiglio. De Chiesa è tuttora, con 4 secondi e 8 terzi posti, lo sciatore con più podi in Coppa del Mondo tra quelli che non hanno vinto gare. Claudio da Monza, con un messaggio spiritoso, continua questa suggestione dell'oratorio, ma l'oratorio è visto in chiave di amarcord, in chiave suggestiva, diciamo, non in chiave riduttiva. E all'oratorio, alla fine, il parroco Mourinho rimproverò Balotelli per i crampi, scrive Claudio da Monza. Da Parma ha chiamato Graziano, buongiorno. Buongiorno, dottore, buongiorno. Dica. Senta, io vorrei spendere 2 parole per lo scandalo della Juve di Ferrara. Una roba mai vista. Sono tifoso juventino, ho 60 anni, sono sempre stato tifoso della Juve. La rivalutazione di Ranieri è emblematica in questo momento. Una cosa vergognosa, una squadra che non sta in campo, non si sa cosa faccia in campo, non corre. E il giornale di Torino, che ha fatto una critica spietata al signor Ranieri l'anno scorso, che nei 2 anni precedenti ci ha portato al terzo e al secondo posto con una squadra dove erano stati investiti molti meno quattrini di adesso, in questo momento ci troviamo in queste condizioni, con una squadra inguardabile. Ecco, la società deve prendere provvedimenti, altrimenti rischiamo di non di arrivare nei primi 3, ma nei primi 10. Questa è la mia personale opinione. Grazie. Grazie a Graziano per la sua personale opinione, che è un po' caricata, che è un po' caricata nell'aggettivazione, ma che, insomma, se parliamo della partita l'altra sera, qualche buon fondamento ce l'ha, ragazzi, perché poi è vero che il Bayern ha giocato una grande partita, ma ha giocato la grande partita che può giocare il Bayern, non la grande partita che può giocare il Barcellona o che può giocare il Chelsea, che può giocare il Bayern. Senza con molta costanza, continuità, potenza, tutto quello che vogliamo, ma senza mai un cambio di marcia, un cambio di ritmo, un colpo di fantasia vero fino all'ingresso di Robben, eccetera. E la Juventus, nonostante il gol di vantaggio che la metteva al riparo 2 volte, come risultati si è squagliata in un modo incredibile da tutti i punti di vista. Quindi, insomma, qualche aggettivo un po' caricato da un tifoso di 60 anni e quindi ragionevolmente da almeno 50 ci può anche stare, insomma. Marco, provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Mi ricollego all'argomento che ha affrontato l'ultimo ascoltatore, però per fare un ragionamento un po' più generale, cioè io sono tifoso juventino, anch'io ho assistito allo scempio di martedì e devo dire che non sono mai stato un gran sostenitore di Ranieri. Però diciamo che nei 2 anni in cui questo signore ha diretto la Juve si è sempre vista una squadra che, come caratteristica principale, visto che grandissimi giocatori non è che ne avesse, non era più la Juve di Capello, la caratteristica principale che si attribuiva a questa squadra era il carattere, la forza, la voglia di giocare fino al 95esimo, non a caso segnava spesso, diciamo, nelle battute finali delle partite, e comunque la grinta, che però era sempre attribuita alla Juve in quanto squadra blasone, squadra più titolata, non all'allenatore. Bene, va via il signor Ranieri, no? Che in quanto a carattere come persona non mi sembra un leone, però evidentemente sapeva trasmettere qualcosa alla squadra. Arriva Ferrara, che per carità gran brava persona, però tutte queste caratteristiche che dovrebbero essere proprie della Juventus come società sono sparite. Un po' la rotta si stanno perdendo. Campionato, mm-hmm. Sì, non ha grinta, non corre, non aggredisce. Allora mi domando, ma se lo domani in fretta, Marco, perché stiamo per chiudere. L'allenatore, no? Non è probabilmente, quando si parla di esperienza internazionale, ma è l'esperienza internazionale della squadra, della società o dell'allenatore che sa preparare i giocatori. Marco, io penso che non sia mai colpa di una persona sola quando c'è uno sfacelo come quello dell'altra sera, o quando comunque si vive un momento difficile come questo, senza a mia volta esagerare coi sostantivi. Le giro con una domanda a mia volta. Perché Buffon, si domanda stamattina alla Gazzetta dello Sport e non solo alla Gazzetta, perché Buffon ha rinviato l'intervento al menisco a dopo il Bari? Cioè, ma chi decide? Cioè, com'è sta storia? Cioè, ci sono dei medici che decidono, ci sono dei medici responsabili, cioè, chi ha l'ultima parola? Cosa sta succedendo alla Juventus? Dov'è, lo diceva ieri Beccantini, dov'è un responsabile, un gestore tecnico che sia da filtro, no? tra una società in cui il presidente, l'ha sempre dichiarato, un uomo di sport e di impianti e di eventi, più che un uomo di calcio, tra di lui e la guida tecnica e quindi poi di conseguenza la squadra. Io credo che sia un pochino più complesso il problema attuale, e che se si arriva a una serata pessima come è stata quella con il Bayern, ci si arriva anche perché probabilmente l'allenatore ci mette le sue e parecchio, ma non è soltanto quello. Mi spiace per Mario da Genova, lo sentirò lunedì con grande piacere, ma se quelli di prima fanno i comizi e poi alla fine qualcuno resta tagliato fuori. Grazie a Pietro Lacorni in regia, a Flavio Suardi in redazione, a Franco Piantanita che l'ha assistito. Buon pomeriggio a tutti.